la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, buon inizio di settimana. Questo 24 febbraio, lunedì, 16:34:43. Siamo in diretta qui dagli studi Radio 24 di Milano. E il tema della puntata di oggi è obbligato, perché facendo questo mestiere non possiamo che chiedervi un'opinione. Se volete darcela all'800240024, mandarci dei messaggi al 349-238-6666 su quello che è il tema del giorno, per chi fa informazione, anche per noi tutti cittadini, visto che dalle 2 circa, le 2:10 così, alle 3:20 si è tenuto a Palazzo Madama al Senato il discorso di fiducia del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, una 68 minuti, parlando a braccio, pochi appunti, la cosa ha rotto lo stile istituzionale abbastanza consolidato, perché il metodo con cui Matteo Renzi ha apporto questo discorso è stato, per così dire, completamente anomalo rispetto a come siamo abituati da decenni. La prima citazione è quella di Gigliola Cinquetti, quindi Nazional Popolare, non ho l'età, quando ha ricordato di non avere l'età per essere eletto senatore e per quindi entrare da eletto in quell'aula. Molto sentimento, una chiusa sulle telefonate fatte ieri ai due Marò, per fortuna, e a Lucia Annibali, l'avvocato sfregiata dal suo ex fidanzato e da un disoccupato che aveva perso il posto ieri, altri passaggi sentimentali, il povero giovane Lorenzo travolto e ucciso in motorino. Insomma, uno stile che lo ha visto parlare, e questo secondo me è un grave errore, anche non da Presidente del Consiglio ma da Segretario del Partito, deve imparare a distinguere i ruoli. I tre attacchi al Movimento 5 Stelle sono stati fatti non su temi istituzionali o di governo, cosa che ovviamente è giusto fare se si dissente, ma sono stati fatti ricordando da segretario del PD che il PD concorre anche alle elezioni difficili come Sardegna e vince, a differenza del Movimento 5 Stelle che non concorre. Buona una battuta evangelica quando ha detto ai senatori del PD, e anche qui sbagliato, non si fa, il Premier non parla al suo partito come Presidente del Consiglio dicendo che bisogna volergli bene comunque. Tre passaggi duri nei confronti del 5 Stelle, c'è evidentemente un problema aperto dopo lo streaming con Grillo. E non vi faccio tutta la sintesi del discorso, credo che sarebbe stato meglio se lo avesse avuto più scritto, più breve, e soprattutto il mio giudizio per la parte dell'economia. Io sono un fan delle misure annunciate, mi piace l'idea che abbia detto in aula che non è colpa di Merkel e Draghi del debito pubblico italiano, ma dobbiamo risolverlo noi perché è colpa nostra, ma i numeri sono totalmente mancati nelle indicazioni di pur buone misure, come il pagamento integrale entro primavera del totale del debito pubblico alle imprese, che però fa deficit aggiuntivo e quindi mi devi dire come lo copri. L'abbattimento a doppia cifra del cuneo fiscale, sì, io sarei curioso di sapere se però è l'11% o il 99%. Il fatto che CDP deve dare fondi in garanzia per sostenere la piccola e media impresa, ottima cosa, ma allora bisogna fermare CDP da diventare l'Iribis. Ecco, sulle cose economiche una cifra non è uscita, anche perché il Premier ha ammesso sinceramente che solo ieri, siccome non si conoscono, ha iniziato a parlarne con Piercarlo Pada e tante altre cose. Ne parliamo con chi l'ha ascoltato e ovviamente sentiamo la sua opinione. È un giornalista della Stampa, lo conosciamo perché ogni tanto lo invito, Alessandro Barbera, grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a te Oscar, buonasera agli ascoltatori. Allora, tue impressioni? Guarda Oscar, credo che... mi dispiace doverlo dire, ma non potevi fare sintesi migliore. Non ho molto da aggiungere. No, come hai molto da aggiungere? No, iniziamo subito, che non è molto felice dire mi dispiace doverlo. Capita che ogni tanto non dica stupidaggini. No, perché andrebbe a finire che dovrei dire le stesse cose. C'è un punto, diciamo, non me l'aspettavo da te. Sei un po' più critico di quanto non sono personalmente sul tono del discorso. Cioè, è vero che è stato un discorso un po' spiazzante per chi come noi, tu sei molto più grande di me, ma io insomma sono una decina d'anni che faccio questo mestiere, ho ascoltato molti premier fare un discorso di fronte alle camere e vederlo attaccare in maniera esplicita un partito durante il discorso di insediamento fa in effetti impressione, e diciamo, per quanto il Senato voglia essere rottamato, un po' di rispetto delle forme ci vuole, però devo dire, ho ascoltato, ho letto le opinioni molto dure di Giuliano Ferrara, che pure in questa fase è un suo supporter, devo dire che trovo un po' eccessive. Giuliano Ferrara lo ha stroncato passaggio per passaggio per 70 minuti. Tremendamente, Io ho avuto l'impressione, vediamo poi che cosa nel frattempo scriverà Giuliano, che in realtà il fatto che Renzi, facendo Renzi un po' alla Fonzie, un po' troppo secondo me, scalzasse Berlusconi quando si è messo a parlare ascoltiamo i mercati rionali invece che i mercati finanziari e così via, con lo stile informale, a Giuliano scattasse l'idea mi stai fregando Berlusconi, insomma. Una battuta che era di Mastella questa, cioè, molti se lo sono dimenticati, ma il copyright di Clemente Mastella. Comunque, io trovo eccessive queste critiche, perché il discorso è stato di una crudezza devastante. Quindi tu dici il Senato è rimasto applaudito molto poco, il Senato, per questo, perché era crudo il discorso. Un discorso molto crudo, un discorso anche molto sfrontato, cioè Renzi ha detto voi siete l'aula che dovrà votare la vostra abolizione, quindi è stato un discorso estremamente all'attacco, estremamente coraggioso, questo non glielo si può negare, e secondo me, mi sbaglierò, ma lo vedremo dai sondaggi, che dall'italiano medio sarà risultato molto apprezzato, perché è il discorso di un sindaco che si ritrova, come lui è, da un giorno all'altro nelle aule parlamentari e ha suonato la sveglia alla classe politica, con parole crude, fredde, semplici, senza citazioni dotte, facendo un paio di errori che vanno riconosciuti ai, come dire, cultori delle forme, cioè ad esempio si è totalmente dimenticato la politica estera, questo è abbastanza grave, a parte la citazione sui Marò, non c'è stata una parola di politica estera. Neanche sul Sud, tanto per dirne un altro. Sul Sud, diciamo, tu mi insegni che forse, diciamo, visto da un punto di vista liberista, forse persino un bene. Sì, dal punto di vista liberista, però è un'anomalia che un Presidente del Consiglio non dica una parola, vedrai domani sui giornali del Mezzogiorno cosa succede. Certamente sì, però dopodiché i problemi che hai elencato sono i problemi dell'Italia e li hai elencati in maniera molto chiara e molto semplice per chi, come dire, a differenza di noi non maneggia questi argomenti tutti i giorni. Ha detto ed è tornato sulla sua ricetta economica, è vero, non ha dettagli, io sono rimasto colpito anche dal fatto che non ha detto una parola sui tagli alle spese, che è l'unica strada per raggiungere gli obiettivi che lui si prefigge. Questo è inutile che ci giriamo attorno, perché di sforare il deficit non c'è spazio con l'Europa, lui è convinto evidentemente di poterlo fare, temo che andrà a sbattere il muso contro Bruxelles e contro la Merkel su questo. Certo che l'Europa ci può concedere più flessibilità, ma deve essere una flessibilità condizionata a una serie di riforme che sono quelle che lui ha elencato. Non ha detto nulla neanche dell'incidente, secondo me, serio di Graziano Del Rio ieri, che ha anticipato Tastrello sui bot, poi smentito da Palazzo Chigi. Forse dire qualcosa su quello, visto che ha completamente volato altissimo, tranne che parlare di fisco amico e di dichiarazione dei redditi precompilata, però per il resto ha volato altissimo, ha fatto finta che non sia esistito questo incidente. Sì, anche se devo dire un po' l'incidente ieri di Del Rio è stato un po' calcato da noi media, nel senso che Del Rio ha detto ma non sarei scandalizzato se chiedessimo un contributo a chi ha titoli di Stato sopra i 100.000 euro, obiettivamente se si trattasse di aumentare dal 12,5 al 20% il prelievo su chi ha più di 100.000 euro di prelievo di titoli non sarebbe un dramma. È vero però, nella chiave che tu mi dici, certamente si può dire che ha sbagliato a non dire che non è in cima ai pensieri di questo governo continuare a chiedere soldi agli italiani per finanziare lo Stato obeso che abbiamo e inefficiente. Certamente avrebbe potuto dire una parola in più per dire ci sarà, se vi chiederemo un ulteriore sacrificio, cosa che ci chiederanno, su questo possiamo stare sicuri, in cambio rimetteremo mano a quello Stato che tanto ci costa. Forse, ecco, da questo punto di vista la cosa più apprezzabile per chi crede nella necessità di cambiare verso davvero sulla burocrazia italiana è quel passaggio sui dirigenti pubblici, che anche in questo caso è stato di una crudezza devastante. Cioè lui ha detto, posto che io non posso licenziare chi oggi ha un contratto a tempo indeterminato in un ministero, sappiate che d'ora in poi chi siederà in un ufficio dirigenziale della pubblica amministrazione non avrà più uno stipendio fisso per tutta la vita. Questo, diciamo, anche questo detto in un'aula parlamentare fa molta impressione. Allora, noi abbiamo una raffica di sms di ascoltatori divisi, devo dire la verità, cari ascoltatori, tra quelli che liberamente ci rimangono, quindi non è un sondaggio, non è un campione rappresentativo, però c'è chi dice siamo positivi oggi perché a Renzi non c'è speranza, Manu che ci dice 68 minuti di supercazzola, parola. Stefano Milano invece entusiasta del fatto che lui rompe con tutte le convenzioni e dice era ora. Gianluca da Milano che dice: io ho sentito molta demagogia ma pochissimi dettagli concreti tali da far capire che si esce davvero negli annunci e si fanno davvero le cose. Matteo ottimissima speranza, vediamo un po', abbiamo alternative, però mi ha ricordato Obama, ecco questo che ci scrive mi ha ricordato Obama, e anche il commento di un giornalista straniero che ha detto no, quale Blair, un giornalista, un collega americano che ha scritto ma quale Blair, questo è Obama, parla più che incidere con le cose concrete. Io non vorrei sembrarvi liquidatorio, cari ascoltatori, in effetti per esempio i dirigenti apicali pubblici a tempo determinato, cioè chiamati a rispondere di progetti misurabili ex ante ed ex post, sarebbe una rivoluzione nel nostro paese, e naturalmente lui l'ha detto, quindi adesso è obbligato a farlo. Mi aspetto che la destra però non commetta l'errore di iniziare a difendere i diritti acquisiti dei dirigenti, perché se la destra dà questa come risposta vuol dire che poi veramente si tratta di fischiarle dietro. Non mi ha molto convinto, perché lui è partito dalla scuola, il discorso di Renzi, giusto, la formazione del capitale umano, ha promesso un programma miliardario, ha detto, di edilizia scolastica. Va bene, voglio capire dove prende i soldi, ma al di là di questo ha detto, ha annunciato, farò un giro delle scuole d'Italia cominciando da Treviso. Attenzione che non sia una campagna elettorale. E poi soprattutto, prima della pausa su informazione stradale e poi di riprendere con Alessandro Barbera, io temo che la vera riforma della scuola si faccia non sentendo gli insegnanti, cioè i sindacati, perché sono loro contrari alla sussidiarietà, all'autonomia scolastica, alle performance misurate per qualità di standard offerto, all'autonomia scolastica. Ecco, io credo che per cambiare la scuola bisogna ascoltare gli studenti e le famiglie, cioè chi a scuola la frequenta, non chi ci lavora, ma questo è il mio punto di vista. Ora strade, poi torniamo con Alessandro Barbera per parlare del discorso al Senato di Renzi. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:47, 15 secondi. Sentiamo l'opinione di un'ascoltatrice, Mariangela, che ci chiama da Treviso, da dove comincerà il giro delle scuole annunciato oggi da Matteo Renzi. Io, se fossi stata Renzi, sarei andata in un'altra regione. Perché è un po' barare cominciare dalla provincia di Treviso, quantomeno dal nord-est. Nelle statistiche del progetto PISA l'Italia è a un certo punto, ma se facciamo l'analisi del nord-est siamo a livello di Baviera. Comunque questa è un'altra storia. Io telefonavo perché avevo sentito dei commenti un po' ironici, sì, sul fatto che non facesse, non avesse accantonato la riforma elettorale. Ora mi pare imbecille prendersi su questo, perché prima bisogna eliminare il Senato e ridurre il numero dei deputati, perché sennò questi le vogliono le elezioni per essere, e qui ci rieleggiamo sempre col Porcello o con qualsiasi altro sistema, i soliti 1000. Ma per piacere, basta, ne basta un terzo. Allora, Mariangela è favorevole al taglio che ha avuto nel passaggio istituzionale Matteo Renzi. Secondo me si è perso un po' esattamente in quella parte del discorso che è stata lunga, e si è un po' perso, parlando a braccio, perché ha detto sì, l'Italicum non si è capito molto bene. È chiaro che l'accordo con Alfano è quello di votare prima le riforme costituzionali e poi l'Italicum, però non si è capito molto bene. Al Senato viene attribuita l'abrogazione del Senato, se questo è stato crudissimo, durissimo, è stato duro nel dire attenti che qui se c'è qualcuno che vuole farci votare per le province, io dico no. E poi sul titolo quinto, a dire la verità, secondo me è stato vaghissimo. La competenza sarà della Camera, io ho capito solo questo. Alessandro Barbera, tu che dici? Che la telefonata della signora dimostra, diciamo, che piace. Se è un campione, che è piaciuto il discorso di Renzi, primo. Secondo, che è giusta anche l'impostazione, non solo il tono, cioè è chiaro che il discorso di Renzi è un discorso che in qualche modo ha trapassato l'aula del Senato ed è entrato direttamente nelle case, e proprio per questo il discorso che Renzi ha impostato non era un discorso istituzionalmente improntato a raccogliere la fiducia di chi doveva dargliela, ma degli italiani che a casa lo stavano ascoltando. Questo è il punto forte del discorso di Renzi, che temo molti osservatori non hanno compreso. Tanto per tornare al tema delle province, Giuliano Ferrara dice che l'abolizione delle province è un ammenicolo e che le province sono delle cose che funzionano meglio in Italia. Ecco, evidentemente se la si pensa così non si ha la consapevolezza di che cosa ormai le province rappresentano nell'immaginario collettivo degli italiani e l'incapacità della politica di decidere, perché se ci dimentichiamo oggi al governo c'è un uomo di 39 anni che parla pane pane vino al vino, come si direbbe al bar, e si frega delle forme e delle citazioni colte, parla a braccio per dire queste cose, è perché siamo arrivati a un punto per cui la gente non ne può più, e in fondo Renzi, in fondo rappresenta questo tipo di visione delle cose. Allora, prime reazioni da politiche. Miguel Gotor, che è molto vicino a Bersani, come sapete, dichiara che lui voterà la fiducia solo per disciplina di partito. Quindi mal di pancia nel PD ci sono, e come non si capivano solo dagli applausi scarsi. Bonanni dice che sosterremo Renzi solo se alza davvero salari e pensioni. Non lo sposa integralmente fin dall'inizio, in altra parola. Evidentemente non sono piaciuti alcuni riferimenti di mancato sostegno ai sindacati da parte del Premier. Poi Ferrero parla di un presidente di una doppia maggioranza, Paolo Ferrero, e quindi naturalmente no. Cicchitto dice discorso di Renzi stimolante ma rinviato al confronto di merito, quindi come dire poco concreto. Alemanno nei Fratelli d'Italia dice si appropria del programma della destra, cosa che se dovesse essere così allora lo dovrebbero votare, ma invece i Twitter dei Fratelli d'Italia e della Meloni erano durissimi, dicevano di un intervento senza alcuna sostanza. Sentiamo Francesco che ci chiama da Roma, prego Francesco. Buonasera, volevo soltanto fare una segnalazione in merito al vecchio, io non sono di sinistra, al vecchio governo Monti, poi Letta e credo che adesso anche Renzi. Un paradosso, mi sente? Sì, prego. Ah sì, un paradosso, un'impresa che è in difficoltà economica e deve licenziare una persona, non tutti sapranno, per mandar via una persona deve pagare un'indennità di 1.600 euro. Sì. In poche parole, se io non ho i soldi per pagare lo stipendio, per mandare via la persona devo pagare 1.600 euro, mi dica se è giusto. E nessuno si sta occupando di queste questioni, ma soltanto di quello che va di moda e quello che dicono i giornali. È capitato tante volte che da questi microfoni toccassimo questo tema, e come sa quel pagamento è nel nostro ordinamento previsto come diritto, appunto un omaggio al diritto del lavoratore a tempo indeterminato, e quindi non è tanto la questione se sia giusto o meno, la questione è ovviamente come fanno le imprese che poi quando sono a cortissimo di liquidità, proprio per ottemperare a questo, finiscono per chiudere prima. Abbiamo più volte anche trattato le questioni di fallimenti che avvenivano per ottemperare al meglio a tutte le pendenze con i dipendenti, abbiamo avuto anche due settimane fa un caso di questo genere. Qui c'è un impegno per tutta la piccola e media impresa, i fondi di garanzia delle casse depositi e prestiti, a me fa un po' sorridere che tutti dicano casse depositi e prestiti ma non dicano come. Ieri per esempio Corrado Passera ha annunciato che con casse depositi e prestiti dovrebbe diventare una grande banca pubblica per lo sviluppo, qui ognuno se non mi dice come, in che cosa blocca Cassa Depositi e Prestiti, quanti degli attivi o delle garanzie di Cassa Depositi usa, Cassa Depositi e Prestiti è una cosa buona a tutti gli usi nel nostro paese, per il momento è diventato un iribis, questa è la mia opinione e quindi che qualcuno mi spieghi. Detto questo, Alessandro Barbera, questo fatto che il Ministro dell'Economia in realtà si siano incontrati solo ieri è il segno che gli è stato imposto dal Quirinale, è il segno che, cosa dobbiamo pensare, che cosa si capiva guardando in faccia i componenti del governo su questi temi economici? Ma insomma è venuto tutto molto in fretta, io ieri sera ho avuto tempo di scambiare per 20 secondi due parole con il ministro, nuovo ministro dell'economia, e diciamo lui stesso era stordito, era appena tornato dall'Australia, stamattina giurava e ieri sera ha dovuto avere un incontro con Renzi in fretta e furia per diciamo impostare alcuni quei pochi passaggi diciamo concreti che lui ha indicato nel suo discorso ai temi dell'economia. Ma è accaduto tutto molto in fretta, se vogliamo si può anche in questo trovare ragioni per chi pensa che il passaggio da Letta a Renzi è stato un passaggio un po' traumatico e forse più di faccia che di sostanza. Certamente diciamo ci sono argomenti a favore di questo. La verità è che la ricetta di Renzi tutto sommato la conosciamo, sappiamo qual è, quello che non sappiamo è quello che esattamente lui potrà fare in queste condizioni. L'altro giorno mi è capitato di parlarne con Bilemo, lui secondo me giustamente diceva una cosa, non è improbabile che Renzi con questa maggioranza riesca a fare quello che lui dice di voler fare fino in fondo. Probabilmente Renzi sa benissimo che in questo frangente lui deve fare qualcosa di molto rapido, di molto concreto, perché la gente non smetta di credere in lui, anche perché a maggio ci sono le europee e quello sarà per tutti i suoi nemici un test fondamentale per misurare se è attaccabile o meno, e deve fare qualcosa di molto, cioè, sul fronte istituzionale, sul fronte economico, lo dovrà fare in pochi mesi, dopodiché molto probabilmente dovrà prendere atto che la maggioranza con l'NC non gli permetterà di fare le riforme più compiute di cui ci sarebbe bisogno, e quindi a quel punto chiederà di andare al voto fra la fine di quest'anno e inizio del prossimo. D'altra parte, allora ipotizziamo che ad esempio una delle priorità di Renzi, io personalmente al cittadino me lo augurerei, fosse di riformare, di aprire finalmente il mercato delle professioni, che è un mercato che secondo me è uno dei grandi, dei grandissimi, delle grandissime palle al piede di questa economia, dell'economia italiana. Ebbene, per fare la riforma delle professioni io dubito che Renzi possa contare sul sostegno dell'NCD di Alfano, no, e questo Schifani. Lo escludo anch'io. E quindi Renzi è il premier di una coalizione che tenterà di dare, che certamente noi tutti speriamo che darà una svolta anche in senso, diciamo, di concretezza rispetto a quello che ha fatto e purtroppo non ha fatto il governo Letta, ma a un certo punto dovrà prendere atto che in realtà per un disegno coerente ce ne voglia un'altra di maggioranza. Un tema che mi ha colpito per assenza, che mi ha colpito perché credevo su questo fosse un po' nelle corde di Matteo Renzi, ma invece nel discorso braccio non c'era minimamente, riguardava da una parte la corruzione, dall'altra insomma la lotta alla criminalità, alla mafia, eccetera eccetera, e che cos'è? Non è uno dei punti fondamentali? Sono d'accordo, adesso la fiducia dell'Europa, dei mercati, e in questi primi mesi, se poi ci sono rotture per andare al voto, come dicevi tu, è tutta sull'economia, il lavoro, la ripresa, le imprese, e meno fisco, e sono d'accordo. Però come mai su questo? A me è sembrato che sulla giustizia proprio scivolasse molto pattinando, perché ha annunciato un pacchetto Orlando, nuovo ministro, entro due mesi, ha parlato della giustizia amministrativa, che è uno scandalo economico, i TAR che dicono no a tutto e così via, però sulla giustizia proprio è mancato, come mai secondo te? Sul caso Gratteri, tu come l'hai capita questa storia di Gratteri che non fa parte del governo? Chi è stato a dire no? Io penso che a dire no a Gratteri è stato certamente Napolitano, resta da capire quanto davvero Renzi credesse nella possibilità di fare Gratteri ministro, e se quella fosse effettivamente la scelta giusta da compiere, o se invece non serviva ad alzare il prezzo della trattativa con Napolitano su qualcos'altro durante la discussione sulla lista dei ministri. Ma per rispondere alla tua domanda, io vedo una cosa che, diciamo, è un po' sotto traccia e a me sembra evidentissima. Qual è? E cioè che questo governo è figlio di un accordo molto pragmatico che Renzi ha diciamo sottoscritto nelle segrete stanze con Silvio Berlusconi. Con Silvio Berlusconi. Cioè, e allora io su questo però ti devo interrompere perché abbiamo finito tempo. Silvio Berlusconi! Guardate che nessuno dopo 20 anni sarebbe ancora in piedi come il signore con i siluri che ha incassato, quel signore lì. Continueremo a parlare anche domani, continuate su Radio 24. Grazie Alessandro Barbera.